Vangelo di San Luca, capitolo 8. Ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio, e con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore d'Erode, e Susanna, ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni. Or, come si radunava gran folla e la gente d'ogni città accorreva a lui, egli disse in parabola: «Il seminatore uscì a seminar la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ed un'altra cadde sulla roccia e come fu nato seccò perché non aveva umore. Ed un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine nate insieme col seme la soffocarono. Ed un'altra parte cadde nella buona terra e nato che fu fruttò il 100 per 1». Dicendo queste cose esclamava: «Chi ha orecchi da udire, oda». E i suoi discepoli gli domandarono che volesse dir con questa parabola. Ed egli disse: «A voi è dato di conoscere i misteri del regno, ma agli altri se ne parla in parabole affinché vedendo non vegano e udendo non intendano. Or questo è il senso della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine son coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze dei piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra son coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono in cuore onesto e buono, e portan frutto con perseveranza. Or niuno accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi la mette sul candeliere, a ciò che chi entra vegga la luce, poiché non v'è nulla di nascosto che non abbia a diventar manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi ed a farsi palese. Badate dunque come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha anche quel che pensa d'avere gli sarà tolto». Or sua madre e i suoi fratelli vennero a lui, e non potevano avvicinargli sì a motivo della folla. Egli fu riferito: «Tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, che ti vogliono vedere». Ma egli rispondendo disse loro: «Mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettano in pratica». Ora avvenne in uno di quei giorni che egli entrò in una barca coi suoi discepoli e disse loro: «Passiamo all'altra riva del lago». E preso il largo, e mentre navigavano egli si addormentò, e calò sul lago un turbine di vento talché la barca s'empiva d'acqua ed essi pericolavano. E accostatosi lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, noi periamo!» Ma egli destatosi sgridò il vento e i flutti che s'acquetarono e si fe bonaccia. Poi disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: «Chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli ubbidiscono?» E navigarono verso il paese dei Geraseni, che è dirimpetto alla Galilea. E quando egli fu smontato a terra, gli si fece incontro un uomo della città, il quale era posseduto da demoni, e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava in casa, ma stava nei sepolcri. Or quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò dinanzi e disse con gran voce: «Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo, ti prego non mi tormentare, poiché Gesù comandava lo spirito immondo d'uscire da quell'uomo. Molte volte infatti esso se n'era impadronito e benché lo si fosse legato con catene e custodito in ceppi, aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò, «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose, «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro d'andare nell'abisso. Or v'eran quivi un branco numeroso di porci che pascolavano pel monte, e quei demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli, ed egli lo permise loro, e i demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci, e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono a portare la notizia in città e per la campagna. E la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuta a Gesù, trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito in buon senno, e si impaurirono. E quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. E l'intera popolazione della circostante regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro, perché erano presi da grande spavento. Ed egli, montato nella barca, se ne tornò indietro, e l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui, ma Gesù lo licenziò dicendo, «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando quante grandi cose Gesù aveva fatto per lui. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Ed ecco venire un uomo chiamato Jairo, che era capo della sinagoga, e gittatosi ai piedi di Gesù lo pregava d'entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni, e quella stava per morire. Or, mentre Gesù v'andava, la moltitudine l'affollava, e una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e aveva spesa nei medici tutta la sua sostanza senza poter essere guarita da alcuno, accostatisi per di dietro gli toccò il lembo della veste e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò, «Chi m'ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero, «Maestro, le turbe ti stringano e t'affollano». Ma Gesù replicò, «Qualcuno m'ha toccato perché ho sentito che una virtù è uscita da me». E la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gittatasi ai suoi piedi dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato e com'era stata guarita in quell'istante. Ma egli le disse, «Figliuola, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace». Mentre egli parlava ancora, venne uno da casa del capo della sinagoga a dirgli, «La tua figliola è morta, non incomodare più oltre il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo, «Non temere, solo abbi fede, ed ella sarà salva». Ed arrivato alla casa, non permise ad alcuno d'entrare con lui, salvo che a Pietro, a Giovanni e a Giacomo e al padre e alla madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse, «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui sapendo che era morta. Ma egli, presala per la mano, disse ad alta voce, «Fanciulla, levati!» E lo spirito di lei tornò ed ella si alzò subito, ed egli comandò che le si desse da mangiare. E i genitori di lei sbigottirono, ma egli ordinò loro di non dire ad alcuno quel che era avvenuto.